Era la colonna sonora appunto del film Il Gatto. La traccia che avete ascoltato era intitolata L'attico illuminato, a firma Ennio Morricone. Insomma, oltre a parlare di Tognazzi, ascoltiamo anche delle canzoni stupende che hanno fatto veramente da cornice ai suoi film, e non solo insomma vengono ricordate come colonne sonore dei film di Tognazzi, ma vengono proprio anche ricordate come grandi, grandi canzoni che hanno un suo pubblico e, diciamo così, un suo mercato. Insomma, spesso in Italia difficilmente si ascoltano queste canzoni nelle radio private, boh, non so, magari non interessano. Noi però le trasmettiamo con immenso piacere, perché io sono anche un estimatore di questo genere di musica che affettuosamente chiamo il beat di Cinecittà, perché insomma sono le colonne sonore che negli anni 60, 70 e 80 venivano abbinate a pellicole memorabili prodotte per l'appunto Cinecittà. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, questa sera un viaggio nella storia della musica particolarmente, diciamo così, vario, però dedichiamo uno speciale dedicato per l'appunto a questo grande attore cremonese, cioè Ugo Tognazzi. Lo ricordo spesso, ma c'è sempre qualcuno che magari si sintonizza casualmente in ritardo, vuoi perché magari legge su Twitter che c'è la diretta, o per curiosità magari si è sintonizzato così per sentire che cosa stiamo dicendo. Perché presumo e dubito che i network commerciali dedicano uno speciale dedicato a Tognazzi, ma secondo me non lo fanno né per Tognazzi né per Gassman, questi grandi attori, né per Sordi, perché vabbè, si tende magari soprattutto tra i giovani a dimenticare insomma chi ha reso grande il cinema italiano. Però visto che qua su Spreaker si può fare quello che si vuole, però è sempre in modo lecito, quindi sono sceso giù in cantina, ho improvvisato questa trasmissione, ho scelto delle canzoni un po' casualmente e sto leggendo in tempo reale appunto le note biografiche di Tognazzi direttamente sul suo sito www.ugotognazzi.com. anzi, è un sito che vi consiglio perché oltre alla carriera cinematografica e teatrale trovate dei link molto interessanti che riguardano per l'appunto la cucina, perché Tognazzi era un grande cuoco, la sua famiglia, poi curiosità varie, poi ci sono tante foto, file audio e video, quindi dateci fare un giro su www.ugotognazzi.com. Noi continuiamo appunto ad analizzare la carriera artistica di Tognazzi, siamo arrivati al 1955, che è un anno cruciale per l'appunto per l'attore cremonese. Infatti registra il suo debutto nel teatro di prosa con la commedia di Bracchi, Il medico delle donne, ma segna anche il consolidarsi del successo televisivo che dalla fine del 54 lo vede protagonista in coppia con Raimondo Vianello nel Varietà 1-2-3, fortunatissimo per l'appunto programma della RAI che lo impegnerà con immutato entusiasmo sino al 1959. Sempre nel 1955 d'altronde porta a Tognazzi il primo figlio Ricky, avuto con la ballerina inglese Pat O'Hara. Ma tanto non basta a placare la sua fama di tomboy de femme, che alimenta il rotocalco dell'epoca contribuendo a fare di lui un personaggio chiacchieratissimo. E se nel 1956 insieme ad Agus e Zoppelli mette insieme una sua compagnia con la quale porta in giro il fidanzato di tutte, il papà mio marito e l'uomo della grondaia, va detto che Tognazzi appare sempre più appare sempre più preso nel vorticoso mondo del cinema, che sul canale degli anni 70 finirà per coinvolgerlo del tutto, ma non prima però di averlo visto debuttare nella regia teatrale portando in scena e interpretando al Quirino di Roma Gog e Magog. L'occasione per dare una svolta alla sua carriera nel cinema si ha con Il federale, per l'appunto, di Luciano Salce, una pellicola del 1961, e con la sua brillante e umanissima caratterizzazione del graduato delle Brigate Nere, Primo Arcovazzi. Bene, abbiamo parlato del Federale, noi ci fermiamo qua, ascoltiamo un'altra canzone, ho deciso di scegliere un altro brano interessante, questa volta però è la colonna sonora di un altro grande campione di incassi, soprattutto negli anni 60, sto parlando dei Mostri. Noi ascoltiamo la colonna sonora affidata al maestro Armando Trovajoli. Buon ascolto. Eccolo qua il maestro Armando Trovajoli con la colonna sonora dei Mostri. Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, in una pellicola veramente, veramente bella che vi consiglio. Si può tranquillamente rivedere. Ora ci fermiamo un secondo perché i minuti veramente incombono. Ci ascoltiamo un'intervista di Enzio Biagi, per l'appunto fatta ad Ugo Tognazzi. Eccola che arriva, via! Ugo Tognazzi, lei ha detto che quando uno smette di fare l'amore è segno che la morte è lì, che si avvicina. Ma questo sesso è proprio così importante, fondamentale? Beh, fondamentale per me lo è, ma penso che lo dovrebbe essere in generale. Vale a dire, è chiaro che non vivo senza mangiare, senza bere, non vivo nemmeno senza lavorare, ma il mio pensiero è che non posso vivere senza pensare di fare l'amore, e quindi dal momento che mi viene a mancare una di queste cose, per me che mi ritengo un sensuale, senza darmi le arie di esserlo, perché quando uno dice un sensuale dice non ti dare troppa importanza, diventa per me una cosa vitale. Ho l'impressione che il giorno che non lo farò più sentirò aperta questa porticina dell'aldilà. Dice la sua biografia che lei ha avuto donne di tutti i paesi, ma c'è qualche differenza? Beh, a conti fatti direi perfino di no. C'è una certa differenza così quando con questa donna hai, diciamo, i primi approcci e con la conoscenza, siccome io sono contro qualunque forma di monotonia, di consuetudine, di ripetitività. No, va bene, ci siamo. A certe volte si mette un T di più, a certe volte un T di ma meno, sì, fa niente. Già il variare è per me stato un'indicazione precisa della mia vita, cioè avere nuove esperienze, nuove curiosità. E quindi quando io mi sono avvicinato con simpatia a una donna che magari era di un'azione, di un paese diverso, mi incuriosiva e mi piaceva proprio perché potevo soddisfare questa curiosità, il carattere di un inglese, il carattere di una scandinava o di una francesina. E l'italiana com'è? Beh, l'italiana diciamo che è la più furba, visto che è qui. È bella, più tenace, ma io credo di aver trovato un'italiana particolare, un'italiana con molte virtù per se stessa e molte virtù anche a mio vantaggio. Però ha le caratteristiche tipiche dell'italiana, meno quella di una gelosia ossessiva. Devo dire che mia moglie mi capisce e mi lascia una libertà di carattere parziale, facendo delle somme e forse tirando dei bilanci annuali che poi rinnova quando vede che c'è un attivo l'azienda può andare avanti ancora. Cosa cerca in una compagna o in una donna? Ma io cerco sempre il desiderio di vederla, quindi io sto con una donna che non frequento, anche con mia moglie. La sua vocazione per l'avanspettacolo non nasce per caso dal fatto che ci sono le ballerine? No, quello l'ho scoperto appena ci sono entrato. No, no, la mia vocazione nasce dal fatto che da ragazzo volevo, come si dice, uscire dal gregge assolutamente, perché ero circondato dai figli dei ferrovieri che erano tutti studenti, abitavano in questo caseggiato popolare dove abitavo io. E io che invece ero figlio di un assicuratore, che quindi mi davo un certo tono da medio borghese, però insomma, e non da proletario, per ragioni proprio di famiglia, mio padre ammalato, necessità di portare a casa qualcosa, andai a lavorare subito a 14 anni, interrompendo gli studi e continuandoli alle scuole serali e cose di questo genere. E quindi sognavo e soprattutto mi dava un po' fastidio che questi figli di ferrovieri andassero a scuola e pensassero al loro avvenire, io andrò all'Alfa Romeo, io alla Fiat, perché a Roma c'è un istituto industriale dove si esce, insomma, tecnici specializzati, no? E mi dicevano, e tu cosa farai? Io ero imbarazzato, perché per il momento andavo a questo salumificio a fare il contabile. Quindi sognavo, e in mezzo a tutte queste cose, prima un po' di football, poi menisco, quindi l'illusione di essere un grande calciatore l'ho avuto solo attraverso un calcio che mi hanno dato e non che ho dato io. Era questa bella intervista fatta da Enzo Biagi. Ora noi ci fermiamo per circa 30 secondi perché devo preparare la seconda parte. Praticamente ho montato il tutto in mezz'ora, quindi non ho neanche letto proprio la biografia, la leggo così sul momento, e quindi io mi scuso per eventuali errori, ma ho voluto fare una cosa simpatica direttamente nella mia cantina. Ci fermiamo pochi istanti, voi rimanete qua, Teletrasporto.